Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. Casi come Wikileaks, il caso Snowden, la lista Falciani ci dicono che probabilmente in futuro sarà molto più difficile mantenere i segreti. Sistemi di criptazione sempre più sofisticati non impediscono a qualcuno di trovare una falla prima o poi, magari una falla umana. E da quella falla passa di tutto. Lo stereotipo dello spione che fruga in un cassetto di documenti top secret è superato. Oggi in una chiavetta USB ci sta un'intera biblioteca di dati e da un piccolo buco nel muro del le difese elettroniche passa di tutto. Tanto che paesi come Svizzera e Lussemburgo hanno deciso di rinunciare al segreto bancario, forse anche perché non erano più in grado di garantirlo. E d'altronde è noto che la possibilità di spostare capitali in modo anonimo è manna per organizzazioni criminali, evasori fiscali, corrotti e corruttori, e quindi la maggior parte di noi è contenta di queste novità. Ma è possibile che nuovi fenomeni come le monete virtuali o elettroniche, la più famosa delle quali è il Bitcoin, aprano nuovi spazi per chi vuol far circolare denaro illecito? Ne parliamo con Ferdinando Ametrano, analista di Banca IMI, è già stato nostro ospite, professore all'Università di Milano Bicocca. Buonasera Ametrano. Buonasera Maurizio. Allora, partiamo da questo Bitcoin che ha stabilito una sorta di standard in un certo senso. Cominciamo a spiegare questo. Come funzionano le transazioni in Bitcoin? Le transazioni in Bitcoin si avvalgono di una tecnica crittografica matematica che usa una chiave pubblica e una chiave privata. La chiave pubblica è sostanzialmente l'equivalente del nostro IBAN bancario. Perfetto. Cioè è un punto di arrivo, un punto di destinazione di un'operazione. La chiave privata è ciò che serve per iniziare invece il trasferimento di valore. È un po' come la password dispositiva per chi ha un conto online, no? Quindi è una roba che consente di dare disposizioni a quell'IBAN lì. Esattamente. Allora, dal punto di vista tecnico, ogni transazione Bitcoin è pubblica perché è registrata su un registro pubblico delle transazioni. Quindi questo è, da un certo punto di vista, il massimo della trasparenza. Ma siccome non c'è nulla che possa forzare l'associazione di un'identità, quindi di dati anagrafici, alla chiave pubblica, all'IBAN della questione, ecco che Bitcoin e tutte le criptovalute si prestano a questo doppio utilizzo. Da un lato essere utilizzate sostanzialmente come contante, quindi difficilmente tracciabili a una persona fisica. Dall'altro, se invece alla chiave pubblica vengono associati tutti i dati della persona, la tracciabilità è assolutamente completa, con livelli di trasparenza mai visti in passato. Quindi dipende dall'utente di questo sistema se lui vuole essere o meno un utente anonimo. E questo è il punto sostanzialmente. Però, assolutamente sì. Ecco, ma rispetto a sistemi come i conti anonimi in vari paesi, fino a ieri appunto anche Svizzera e Lussemburgo, il livello di trasparenza, diciamo, offerto da sistemi come Bitcoin è superiore o inferiore? Io direi che da un certo punto di vista è superiore, nel senso che in qualunque momento il trasferimento di valori crittografici raggiunge o tocca indirizzi che per qualche motivo siano pubblici o siano documentati come appartenenti a qualcuno, questo immediatamente mette dei punti fermi nella rete delle transazioni che permette a un investigatore di percorrere il flusso informativo. Cioè, insomma, essendoci tutta la storia di tutte le transazioni mai avvenute con quella valuta, se io dei punti fermi là dentro, sono un po' come la stella di Rosetta, no? Mi servono poi a decifrare anche tutte le altre transazioni. Può essere molto difficile, ma è possibile. È assolutamente possibile, cosa che invece non è possibile con il contante. E certo, perché una banconota non porta traccia delle transazioni di cui è stata oggetto, diciamo, no? Alcuna traccia. D'altronde faccio una domanda: chi di noi ha usato veramente nel mondo reale banconote da 500 euro? Allora probabilmente il fatto che queste banconote esistano risponde all'esigenza di un'economia sommersa che anche il gestore della massa monetaria ha voluto in qualche maniera tollerare. Ecco, tollerare. Addirittura so che l'euro pare sia la moneta preferita dalla criminalità organizzata perché è largamente accettata nel mondo, e per fare un esempio, 1 milione di euro pesano 1,8 kg, mentre 1 milione di dollari sono 10 kg. Per cui, per chi traffica in queste robe non è una differenza da poco. Quindi, fatto salvo che finché ci saranno contante e banconote da 500 euro o 1000 franchi, il problema comunque è, come dire, più filosofico che altro, mi domando: oggi dobbiamo comunque preoccuparci che monete elettroniche come Bitcoin o altre possano essere considerate una risorsa della criminalità organizzata, per esempio? potenzialmente potrebbero diventarlo, ma ad oggi non me ne preoccuperei molto. Lo direi con una battuta: vista l'attuale capitalizzazione di queste criptovalute per organizzazioni criminali che devono muovere masse ingenti, tipo il cartello colombiano, sì, della droga, la moneta di elezione resta il dollaro statunitense, sì, o al massimo l'euro. Insomma, ci vuole anche una bella massa monetaria per accontentare tutti questi signori. Esattamente. Grazie a Metrano. Grazie a te, Maurizio. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.